occhi di carbone fissano il sapone bolle blu. Non ci sei, nebbia sulla strada, scricchiola la sedia, ore sei. L'alba è viva, mille più sirene mi invocano. Dal fondo del bicchiere mi tentano. Occhi di carbone ridono al gran sole che va su. Non ci sei, nebbia sulla strada, scricchiola la sedia, ore sei. L'alba è viva, mille più sirene mi invocano. Dal fondo del bicchiere mi tentano. Sirene mi tentano.